la lancetta quando vado con la portante. Si conferma, adesso è aumentata la grande. Ma è il processore inserito, E penso di sì, Pierpa, e bisogna che il giorno che ci sentiamo mi fai di nuovo un ripasso. Perché ti sei dimenticato? Diciamo che alcune cose me le ricordo, altre, Pierpa, sono un po' così, se devo essere sincero. Ti direi una bugia se ti dico che mi ricordo tutto. Chiama, chiama. Schiacci semplicemente quel tastino, l'accendito azzurro SP, quando ti appare la scritta, tutta la scritta, e fai girare. salutata stamattina la città dell'amore, Domenico. Io mi sono fatto diciamo da mezzogiorno sino alle 4:30 lì, positivo, molto bene, avanti l'amico Falchetto per Domenico. Gappa, e allora preparato l'abbiamo quel furgone, sì. Ce l'abbiamo preparato il furgone. Eia, tu ti metti nel castello, vai sul sotto, capito? E dove sei arrivato lui? E allora, trabacchiato oggi, sì, alla grande. confermare. Domenico, uscitosi dal tunnel. Quello sotto quell'antenna grande, non gli ha creato mai. non saprei. Dov'è? Dice che prima c'era il dipolo, l'Altenino ce l'aveva. Brutta sia un coso, però a noi che ne piani su è un casino, eh. Ehi, qualche decibel più dell'altra, della Mantova 5, hai capito? Appagata, si conferma, ma quello lì è quello che c'è scritto, ed è una cosa, mentre che quello che non c'è scritto è un problema. Appagata, anche quello è vero. Va bene, dai, che qua ci lanciamo di nuovo Domenico. Domi! Perché il mercato chiedeva antenne nuove, le migliori sono la 1 e la 5 che si equivalgono, c'è le reali più lunghi e c'erano un pochettino di più di ricezione. Tu Mario, lo sapevi prima? Io avevo le 5, ciao Roberto, buonasera, ben entrato. Gappa, tutto bene, Roberto? Sì. Ok, gli ho fatto il maleducato, comunque saluto a tutti, Giuseppe, Falchetto e Mario, buonasera a tutti. Allora, come ho detto prima, le antenne una vale l'altra, un pochettino meglio le ricezioni vanno la 1 e la 5 e basta, per quello che c'hai questi problemini Mario. Naturalmente considerando sempre le stesse condizioni, non so se hai modificato altezza di pali, se le hai abbassati o cosa hai fatto, se avevi tirati in metallo, se avevi tirati in nylon o cosa hai fatto rispetto a prima. Niente, ho cambiato l'antenna, ho sceso il palo, i tiranti non li ho neanche toccati, perché ci sono rimasti gli stessi, perché ho mollato l'antenna e l'ho buttata giù. I tiranti sono rimasti esattamente gli stessi. E niente, abbiamo messo sull'antenna il buco. Però non si sente niente. Perlomeno, domenico prima, non dico molto, ma dopo Tovaglia lo accompagnavo e lo sentivo. Adesso esce dalle gallerie e non lo sento più. Vabbè, è un'antenna diversa, la turbo è leggermente diversa dalle altre come configurazione, magari è un po' più larga come la larghezza di banda, nel senso ti permette di scendere un pochettino più in giù e salire un po' più su, come la larghezza di banda è superiore, ti permette di accordare meglio, però non è superiore alla 1 e alla 5, quelle erano super collaudate antenne che esistono da una vita, io ho riviste di oltre 30 anni, 35 anni, esisteva già la Mantova 1, la 5 c'ha un radiale in più, l'elettricità elettrica alla 1, non cambia niente, solo quello c'è il vantaggio, la turbo si dice, ma è da verificare, perché io conosco gente che accorda la Mantova 1 e scende giù a frequenze molto più basse come la turbo, è solo una questione di mercato, l'hanno fatta soltanto per far vedere che c'è un'antenna nuova, però a livello di ricezione è dimostrato che è inferiore la turbo alla 1 e alla 5. Buonasera anche da parte mia. Io ti posso confermare che quando sono andato a comprare l'antenna, perché io prima stavo uscendo qui da casa con un antennino di macchina, mi hanno offerto come prima possibilità la turbo. E niente, rifiutata proprio in pieno perché non rende, come hai detto giustamente tu, come la 5 e la 1. La 5 non ce l'avevano disponibile, ho preso subito la Mantova 1, però mi trovo abbastanza bene. Guarda, c'era Tonino di Usini, lui aveva tutti e due uno a fianco all'altro. Differenza tra 1 e la 5 non ne ha notato assolutamente, mentre se andata la tubo, lui ha avuto anche la tubo e ce ne ha notato in negativo. Sì, hai ragione Roberto. Guarda, io poco fa non sono voluto intervenire perché ho perso un pochino di tempo per cercare, perché io tutto qui archiviato, sono un po' maniaco dell'ordine, no, le cose mie sono, anche se manca la corrente qui a casa, il buio scusa, e ce l'ho portato pronto. E manco fa uno. Ed è così, Roberto. Prova prova radio. Sì, avanti. Prova radio, grazie. Sì, avanti, prova radio, chi sei? Qua Roberto da questa parte in compagnia di Mario, Giuseppe Falchetto, avanti con il nome attivo se ce l'hai. Chi sei, avanti? Sì, dove va? L'avete sentito? Io ho sentito. Sì, anche io ho sentito, ho detto Roger. Se sei all'ascolto, segnale buono, radio bassa, molto molto bassa, abbastanza comprensibile però bassa. Mario, turbo va sempre benissimo come antenna, non pensare che sia una critica, dico però confrontata con la 1 e la 5, un peluzzino di meno rende, ma veramente se c'è le stesse condizioni, perché molte volte Mario, tu accompagnavi Mario in giornate chiare, pulite, dove c'era Mario meno QRM, oggi Mario non riesce a accompagnarlo perché ci sono delle condizioni sfavorevoli, capito anche a me molte volte, dico che se la l'altra volta lo sentivo e oggi non lo sento più. Dipende anche dalle condizioni di cosa e soprattutto anche delle, se c'ha le stesse condizioni di trasmissione lui, perché molte volte uno magari ha un po' di distrazionarie, oltre che magari un po' più di correm, tu si sommano le cose per cui si creano anche questi scompensi che tu dici. Allora, lo sentivo anche io magari un mese fa, ho ascoltato il busto di Puttifiga, e oggi non l'aveva cruzzato. Dipende dalle situazioni atmosferiche molte volte. Tantissime che ce l'hanno, tipo Salvatore Maestrale, Gigi Vulcano, molte persone ce l'hanno e si sono trovate benissimo, non bene, ma in certe situazioni può andare anche meglio, non lo so, magari può dipendere molte volte anche dai palazzi limitrofi, magari che con i radiali della cosa, della 1, magari riesce a passare quel palazzo e a attraversare l'ostacolo, mentre con la turbo magari è peggio. È capitato tantissime volte con tante altre persone, come mai io quello lo ascolto e lui che è vicino a me non lo ascolta. È capitato con Falchetto, ti ricordi Falchetto l'altro giorno, che a me mi arrivavano segnaloni allucinanti e tu non riuscivi a sentirti. Infatti, confermo. Mentre tu adesso, a Domenico lo ascolti meglio di me, io poco fa lo stavo ascoltando in mezzo al QRM, però in certi passaggi non riuscivo a capire, tu ci stavi parlando, dipende dalle situazioni, magari con l'antenna tua orientata in quella posizione lì rende meglio, ma le altre cose magari vado meglio io, dipende anche molte volte dall'orientamento della cosa, dei radialini, perché come si riflette l'onda, dipende da che varco trova, tante cose possono essere, perché per dire Falchetto a Muro se lo ascolta bassissimo, ti ricordi a Gianni Capri 2, con l'antenna anche grande lo ascoltavi bassissimo, e invece lo ascolto a bomba, chissà perché, perché tu sei più vicino teoricamente. Sì, confermo quello che stai dicendo Robert, confermo al 100, però oggi, a tornare al nostro discorso di Domenico, io lo sentivo molto in mezzo al QRM a Domenico, non è mai successa una cosa, per esempio ieri l'ho accompagnato lì dopo il secondo bivio di Arda, dove c'è il distributore di benzina e oltre, per esempio oggi la popolare l'ho sentito in mezzo al QRM, Robert. Come può essere anche la situazione atmosferica che molte volte magari non ti spaventare più di tanto, dai, già l'ultima antenna, niente da dire. Ok, vediamo se c'è questo amico che ha chiesto il controllo, avanti quello che ha chiesto il controllo, buonasera. E perché ieri, lo stesso, o ieri, quando è che c'erano quelli spagnoli? Qua arrivavano 9,60 in FM, tutti in fondo a scala e tu arrivavano Santiago 3, così qualche, e non riuscivi a farti sentire neanche tu. Confermo, è una cosa, sì, confermo quello che hai detto, vabbè, è giusto, alle volte riesci a parlare, alle volte no, è vero, dipende sempre come il tempo. E lì sicuramente c'era il varco aperto per loro, perché anche se non sono entrato, io avevo l'apparato acceso qui a casa, li sentivo tranquillamente. Infatti quando ho sentito Roberto che diceva, caspita, qui stanno arrivando a bomba, qui arrivavano da parte mia 9,50, sempre in FM. Più forti di Pierpaolo era 9,50, questa era 9,60, tutti quanti, addirittura a un certo momento poi mi hanno detto, attenzione, c'è un QSO locale, stiamo parlando noi, deve essere, stava arrivando talmente forte di lì, e li disturbavo. Che ha parlato? È sicuro? È stato Muru! E a Paolo Caterna! Ciao Pierpaolo! Pierpaolo, e beh, si parla del diavolo, mi spuntano le corna o la coda, cosa vai tu, la corna o il gol? Dai, la verità è che invece vuoi venire l'altro, dai. Si spunta, no, che cosa volevo dire, dimmi. Se lo vede da me se ne ci fiato. No, io non l'ho mai detta quella parola, non l'ho mai detta a nessuno, non lo uso. Ho detto, mi spuntano le corna, dico, non è spunta la coda, normalmente dico, ma deluviato mai intesi, non lo dico mai. Ah, sì, ma lo volevi dire, no, nel mio linguaggio. linguaggio non l'ho mai detto a nessuno, no, perché se ci sei tu qua davanti non l'ho mai detto a nessuno, non lo uso quella parola lì, diciamo, l'ho sentita qualche volta, ma io personalmente non l'ho mai detto a nessuno. Oppure dite voi dite coro dall'aino, cose così, però te lo piaco non l'ho mai detto. K, quelli arrivavano più forti di me. Tu arrivavi 9,50 per fa, non solo vedi tu, in FM sto parlando, che in FM i segnali sono diversi, e questo arrivava a fondo scala, più di 9,60, proprio a fondo arrivava. K, e arrivavano forti anche qua, eh. Però la gringhella, già lo sai che cosa mi ha detto, sì. Non lo so, dice lui stava facendo con 150 watt quel tipo. No, no, che cosa mi ha detto? Praticamente mi sta mandando. Lo sai perché se mi sta mandando? Perché prima stavo parlando con diverse persone, due o tre o quattro, erano tutti i nomi. Poi mi ha detto le due QSL, mi ha detto dammi l'indirizzo, lui mi ha dato l'indirizzo suo, e gli ho detto dammi il primo box, mi ha detto no, non te lo do, allora sei rimasto, va bene, ok, ok. Non gli ho voluto dare io, infatti un po' maleducato, ma per radio non do niente io, ti pare che mi vada i miei dati per radio, così viene subito a controllarmi. No, tu gli devi dare un altro indirizzo, capito? Che diritto gli do io? Che cazzo di diritto gli posso dare? No, no, non mi piace, infatti ci è rimasto male, ha detto ok, va bene, va bene. Tu dai l'indirizzo di Falchetto. Di Falcone? Ma di Falchetto, tu gli dai l'indirizzo di Falchetto, così arrivano a lui. No, ma cosa ha fatto? Siccome c'è un amico, c'era proprio la tarina, stava parlando stasera, ha detto mettiamoci una casella postale, a me non me ne ha fatto niente, già c'è un amico che c'è la casella postale, se capita gli do la casella postale di questo amico. Anche così puoi fare. Così a me non mi zecca né zecca né aereo. Ciao, poi positiva, riprendetela. Che io sono in attesa ancora della cena. Siete nei dazzini. E mi sa che questa notte non me ne vogliono dare. Ciao Pepa, Giuseppe da questa parte, ancora niente carica. No, non è pronto ancora. Positivo, allora se l'attesa è così lunga vuol dire che la pappa è buona. Ma la cosa è buona, la cosa è buona, mi hanno cucinato un osso buco da mangiare, mi hanno cucinato. Cappa, anche quello in tempo di guerra si mangia. Ricordati che in tempo di guerra dicono che anche l'aceto di seta, quindi su che andiamo, su col morale. Un attimo di viaggio la batteria, riprendo subito, eh. Va bene, va bene. Ciao Mario. Ciao Vela. Ehi, appara lì. Già lo sai che noi scherziamo, non ce n'è problema. Davvero, Giulia. Ehi, vabbè. Purtroppo è così. Cavolo, sei andato più di mezz'ora fa, quasi, a caricare. E invece non ti ne hanno dato oggi, là. Asciutto oggi. No, anch'io pensavo che mi ero leggermente bambagnato, invece era mi ero leggermente a vedere che tipo di bagno dovevo ancora congelato. Ah, gappa, e tu non l'hai detto, la menisce è tutta la matessi, ci appalavo voi, ma a loro continuo di sempre io. Adio. Dimmi Robè. Ma che macchina sta usando, il K? Sceglia. No, il segnale, non dico che è migliorato, ma è più o meno come la prima. A livello di trasmissione è sempre lo stesso qua. No, non di meno. Per cui l'antenna sta andando alla grande. Va bene, adesso è pronto, ci sentiamo dopo. D'accordo, buona carica. E ce la risentiamo, dai. Ciao, buona carica anche da parte mia. Avanti, Giuseppe. Ciao Verga, buona carica e niente, dai, ci sentiamo a pratica, non c'è problema. Avanti Mario. può essere un difetto della macchina, le hanno fatti questi leggerini in alluminio forato, cioè il tondino di coso forato, tubicino, si fa il gli basta che si intacchi un po' anche la caducciolo, che ti intacchi l'ossidazione, ti fa ossidazione sul materiale e poi si spacca. Perché oltre che fine fine poi è mucato di parte in parte, capito? Non c'è nessuna resistenza. Avessi avuto almeno un punto di appoggio, ma poi sotto la mantova il radiale appoggia dove c'è il PL, c'è questa placca in lamiera, per carità, fa schifo. Vabbè, fa schifo, Mario. E dimmi una cosa, perché non la vuoi scendere l'antenna? Se stai radiando, lo stai bene, non sei a posto, il segnale c'è, che cavolo ti frega? Perché non senta nessuno. Quelli piccolini come prima non li sento più. Vabbè, Mario, tutto non si può avere, cacchio. Però adesso con l'antenna in trasmissione va bene quanto la mantova 1 e 5, ci equivalgono, ma ricezione è un punto, Mario, hai perso, ma dipende, le prove si fanno a parità di situazione. Adesso oggi, Mario, tutti quanti stiamo ricevendo male, perché anche Domenico lo stavo ascoltando male, in altre situazioni magari lo ascoltavo molto meglio, ma non significa niente, Mario, non lo so, è la giornata oggi, non è detto che sia solo... Una cosa, ma il palo tu non puoi alzartelo un pochettino, visto che sei in mezzo ai tubi? Dove lo devo far salire? Ci sono già 6 metri di palo, 7 metri di antenna, anche se la girata è in antenna. Li metti sotto, in questi 6 metri di palo, li metti un altro tubo, li dai un paio di metri in più, e magari un paio di metri ti aumentano anche la ricezione, magari se c'è qualche ostacolino te lo superi. Ostacoli, non ne aveva quella là, non ne ha neanche questa, solamente che a me non mi piace, uno perché c'è quelle fascette di cacca che sono quelle da avvitare, tipo quelle che mettiamo nei manicotti della macchina, e invece io le voglio mettere quelle altre più robuste col muloncino come si deve, in modo che quando stringi strisce. Cappa, c'è gente qualcuno sotto, avanti chi è, avanti. C'erano anche stasera qui sul 5 e sul 10. Andà bene, ok, facciamo una chiamata generale, attenzione, canale 5, chi vuole entrare in compagnia di Roberto, la prima parte, poi c'è Mario e l'amico Giuseppe, vediamo un po' chi vuole entrare con la buonasera avanti. Non besta nessuno. Ok, riprende tra Giuseppe e poi fa girare. Ci mancherebbe altro. E niente, comunque Mario, io confermo quello che ha detto Roberto poco fa. Non metterti problemi, non metterti in entrare in testa, perché anch'io ho perso Domenico all'uscita delle gallerie, anzi quando era lì cementerie, se devo essere sincero. Quindi tranquillo, quindi per terra per il momento che non è successo niente. Quel rumore pazzesco, non so cosa ci sia nell'aria stasera, non lo sentivo manco io, quindi non c'è stato problema. Però quello lì è da vedere. altrimenti non c'entra niente con la storia che stai dicendo tu, assolutamente. Mario, io sono convinto, scusami da te, io sono convinto che se non è una questione di massa avresti avuto stazionare a 1000, poi non lo so, vabbè, prova a confermarmi tu se sto dicendo qualche stupidata. Io ti garantisco che tu stai uscendo alla grande. L'altro giorno forse sono stato l'unico che te l'ha detto, stavi uscendo, c'avevi problemi di segnale, ti ricordi che hanno detto al contrario, che non era vero, che era tutto a posto. Di trasmissione sei perfettamente alla grande, diciamo come uscivi prima stai andando adesso. In ricezione tu mi stai confermando che forse hai perso qualcosa, ma è il tipo di antenna che ha una resa leggermente inferiore alla 5 e alla 1 per il tipo di costruzione e configurazione dei radiali. Per cui non c'è niente da fare, per cui l'antenna sta andando alla grande, se no non sarei riuscito con questi segnali, eccetera, eccetera. Per cui se tu mi stai garantendo che il palo è lo stesso, i tiranti sono gli stessi, non c'è tiranti in ferro, in fil di ferro, perché qualcuno mette dei tiranti in fil di ferro, magari quelli possono anche crearti dei vantaggi o degli svantaggi allo stesso tempo, perché ti possono fare tipo un effetto gabbia. E il cavo è lo stesso, per cui mi stai confermando quello, l'antenna sta andando e basta, non è questione di massa o non massa, l'antenna è oltre i 3 metri da terra, per cui se fosse meno di 3 metri ti avrei detto attenzione che di lì ci sono problemi, l'antenna magari ci sono 6 metri di palo, le stesse condizioni che c'erano prima, per cui non c'entra niente, l'antenna è così e te ne dirà così, non c'è niente da fare. Un po' più di acuti, diciamo più neutra come modulazione, belle tutti e due, però anche l'85 non scherza. Ehi, capolappa, c'è un bel pulsantini questo qui rispetto all'MC60 che non c'è niente. Ma che dato Salvatore? No, io fatemi parlare anche a me, se no vi faccio modulare. Vai e mora. Allora avevo sentito bene quando stavamo durando Roberto, qualcuno sotto che voleva entrare, eri tu Luca? No, non lo so, sono forse l'FM, capito, non penso che ormai mi passi da te, non penso proprio, guarda se mi passo ci butto tutto. Andate tutti e due e quando io finisco di fare 1, 2, 3 e vediamo se siete pronti. 1, 2, 3. Dai, sono pronto, vai. Vai che mi si piace a Luca, non c'è Giulia, mi chiede in faccia. Sta andando, eh. Ora, tu mi giungi, Cappa, Luca tu sei passato, Roberto stavi parlando. Ma adesso no, ho parlato di più come detto Mona, ma non c'è un bel Luca mi schiaccia. E fallo viceversa il lavoro, invece. Come facciamo viceversa, Roberto, dimmi. No, che mi pongo io uno visino e fammi due con uno visino a vedere se passi, no, con Falchetto. Guarda che non è vicino a me, Giuseppe, io ho passato il cuore. Roberto, lo sai, no? Non è vicino a me, tu ha passato il cuore lui. C'è la chiesa. Io sono più lontano di tutti, li crepo. Me, Mario e Luca possono provare, ma non penso che passi Mario con Luca. Ah, no, passa Mario, guarda, 1000 per 1000, guarda Mario, parla. Ehi, guarda, li crepo, li passa tutti e due, sciappa, Giuseppe, parlando, sai, di comprende uno dall'uno dell'altro, non passa nessuno. Allora, io non ho manco aperto bocca, però qui da me stava entrando Mario, anche se un pochino disturbato, devo essere sincero. piacere, stavo entrando Mario. Beh, ormai Mario lì da lì schierreggia. Lascia un po' che se quando ho caduto da qua, le case che ne sono abbandonate, mi hanno la casa lì, lui lo ammazza tutti, lo ammazza. Non parla adesso quando sta parlando il buon Giuseppe, dai, vediamo un pochino, avanti. Thank you. perché fa chiamata K, controllo macchina e spogliare K. Aspetta, ti ha parlato in due, chi ti stava sovramodulando avanti? Chi è avanti? Chi è che sta parlando? Non voglio dimenticarmi, cioè non voglio dimenticarmi. carri, addio. E non vorrei passare preso in piatto, ma fai che tu è andato in quel RX o ha chiuso le trasmissioni? Fai che se ci sei, prova a illuminarmi tu un attimino. Ciao, ma quindi stai chiudendo o chiuse? No, ancora non sto chiudendo. Non mi ricordo se qualche altro è andato via o ha chiesto un attimino di bianco. Oggi so che da ieri sera che oggi era un pochettino pesante, è vero Giuseppe? Come Anto, in che senso? La giornata. C'era la. Mi hai detto da ieri sera che dovevi andare molto lontano. Cappa di positivo, sì, già fatto il giro e non è che sono da molto e che sono rientrato a casa, figurati. Ma sono qui adesso un pochino, giusto per scaricare un pochino di tensione, diciamo, di tensione lavorativa, dopodiché domani un altro giorno che si ricomincia intanto. Cappa. E poi Giulio, ma quel problema là scomparso del tutto? Cappa, quel problema là è scomparso del tutto, però mi avevo un altro di segnale come quello che abbiamo sentito il giorno lì in via Grazia Deledda, anche quando c'era Veragno. Quel frusciltrane, ma non è fastidioso quello? No, non è fastidioso, ma lì è un trapano, facciamo. Quello lì lo fa quasi a tutti. Ogni tanto lo sento pure io, è inquinamento atmosferico. L'importante è che non rulli quella cosa là. Ma io sto pensando che 2 più 2 fa 4. 2 più 2 fa 4, ricordiamocelo, quella storia là, capisci? Cappa di positivo, l'importante è che sia sparito, dai, l'abbiamo risolto tranquillamente, e va bene così, dai, non ci sta problema, l'importante è essere qui tranquilli, farsi la chiacchierata a tutti quanti e via, dai, non ci sta problema. Anto, io mi assento proprio 20 secondi che mi sta chiamando la bambina, riprendi tu e fai girare, sto arrivando subito. Ciappa. Avanti, do più uno. Toni Fischietti? Danni, ci sei? Ciao, uomo. Sì, buonasera. Sai, forse ho bruciato la bumera. Cos'è bruciato? Un antennino. Cappa, ma che quello del ciabete? No, un'altra, la boomerang, quella con la staffa montata. Cappa, ti ha giudito. Se ti ho detto chissà cosa, la boomerang già lo sai, e più di tanto non va oltre. E cappa, l'ho vista ora su... La compra la nuova, ma per la boomerang non la prendi, mai comprata. Guarda, vado a Busetta a comprare, però boomerang non ne avrei preso. Ma se è andato da Torino per i 6 soldi mi avrei preso la Storm 27. E quella, con quella lì risolvi l'80%. Nel caso, rispetti le misure dell'antenna, la metti sopra il balcone e fa. E capo, adesso vediamo, sto aspettando questa amica, se non era quella che avevamo parlato, se ti ricordi. Non te ne aveva detto? E capo. E se te la dà? Buon sonno. Per spendere i soldi per la boomerang non vi avrei speso i soldi. Che piatto mi hai? adesso se ti danno volante. Oh, è grande, sì. Non so da quanto sia. Cos'è una mano, ma cos'è? Una Superland, una Ringo, cos'è? Una mano, ma non l'ho detto. E allora, posso ti metti? Sei il capo. Vabbè, vabbè. Tu fai la discesa, ti fai dai capo e tutto se te la fanno mettere su, vai, vamos. Però gli stavo spiegando una cosa a Mario, che ce l'aveva una persona lì, la Mantova, uno, e gli hanno rotto le palle, hai capito? Ci si metterà l'orifice, che cazzo, boh. Allora lui si è stufato e ha messo un'antenna più piccola, hai capito? Ecco. Cioè prima il coso della TV era, cioè non era digitale come ora, capito? Vabbè, prima era la TV analogica, adesso è digitale. Ma comunque dai, si dovrebbe prova a metterla, ci vuole un palo buono, ci vuole a chi non si punendo un giocattolino, il tappo è buono, la piazza. Piano piano, vediamo. Ecco, prego. È stato un break, Sì. Prego, prego. Tu dimmi. Perché? Beh, a tu. Perché? Che diciamo? Peccato. Chi ha risposto che cosa? Giuseppe. No, Antonello, Giuseppe è andato a fare un attimino di bianco. Ah, che brava. Va bene così. Sì, infatti non sto ascoltando più tu. Ci spostiamo a 10. Esatto. Oi. Ma noi siamo nel binario 10, guarda. Siamo con loro. Papà, Lucarie, come mi ascolti con questa radio della età tua? Non parlo di me ascoltando. Ciao. Giuseppe. Cava. Ha detto. Beh, va da tu. Binario 5, attenzione sul binario 5, la stazione stasera parte con 3/4 d'ora di ritardo, K di positivo. I signori passeggeri sono pregati di allacciare le cinture di sicurezza e passare tutti sul 41. Cava. Adesso signorino che mi sta portando. Attento, la parola. Fatto. Allora. Come mai quest'ora? Perché l'ho sbagliato un cavetto, l'ho sbagliato, e l'ha rotto. E l'ho riportato indietro e l'ho riportato a giro. E sì, adesso. Ma come sta succedendo a via Carlo Felice? Ah, sta andando così anche lei. E a casa, non so perché non ho voglia di fare via l'Italia, fuori, adesso passo qua al centro, faccio prima. Grava, allora ti hanno parlato due viaggi, dai. Adesso l'altro bisogna vedere, se lo pare la bricco, adesso vediamo quello lì con domani. Ma beh, detto che tu non è colpa, se ci abbiamo mandato un rotto, non è colpa tua, no? Ma siccome io sono una ditta esterna, non sono a contatto con loro, capito? se dice che è, lui il viaggio non gli pagano così. Ci rimetto il viaggio tutto. Adesso vediamo domani, speriamo che lo faccia almeno recuperare qualche cosa. Con Pier Franco magari riesco a togliermi qualche cosa. Va bene. E magari mi faccio organizzare qualche viaggio, magari uno o due viaggi, li metti 10 euro in più, ognuno l'affitto. Ed esco dai soldi sui, là. Positivo. Già va bene. Se riuscite i tuoi papapone sulle 41, perché là c'è il tipo, c'è l'importantista. Adesso sento un po' il 41, se c'è il 41 passiamo sul 41. No, il 41 non ce l'ha patatone, però ero io facendo lo stupido prima. No, sei un portantista delle coordinate Antonio e no, non è questione tua, no, patatone, no. Non pensare male che sei tu, no, è uno che sta nelle coordinate di Antonio, non c'è problema. No, perché io prima ho fatto un camarada e dopo ho fatto un po' lo stupidino, eh? No, ma non è a te, non è un segnale che arriva ogni sera, non parla questo, manda solo bip e passa, capito? Gaba. Bene, patatone, io ti saluto, dai, che saluto anche gli amici del 41 e me ne vuoi tutta andata, dai. Bene, ciao. Ciao, patatone, ciao, ascoltiamo domani se coincide, dai. Ciao, buon rientro con tutto. Grazie, ciao.